Yo, ascolta, è il mio cuore che ti parla. Ogni parola che senti viene dal profondo della mia anima. Yo, ogni rima è frutto dell'amore per la poesia. Non c'è niente che non sia vero. Questo è il mio gioco e non ci sono trucchi. È tutto sopra il tavolo. Yo, combatto col sorriso, apro un'altra mano, chiamo carte, punto il doppio perché sono più deciso. Rilancio di una sfida, se perdo torno a casa testa bassa, ma se vinco voglio tutta la partita. Mi gioco ogni illusione ed ogni forza sopra il piatto. Una carta di valore troppo alta e non la scarto, no, rimango basso. Vedo la giocata e la raddoppio, vado in fondo, non esiste dire passo. Metto in mostra il mio valore, le mie scelte, mi spoglio di ogni tipo di inganno. Gioco a carte scoperte, sì, ho bisogno di una scala un po' più elastica per vivere tra numeri e figure di plastica. Restare in mezzo e non farsi notare, e dal momento meno atteso ritrovarsi a ribaltare. Con la faccia da pazzo, puoi sentirmi mentre avanzo, cammino scalzo, sono fuori dal mazzo. Se voi là fuori riuscite a capirlo, no, sono in mezzo a voi, cammino tra di voi, respiro la vostra stessa aria. Io fuori dal mazzo, faccio parte di un sistema, il mio ruolo è esposto a continui cambiamenti. Sono l'incognita che cambia le regole, ma chi si accorge quando sto per farlo, eh? Siedo al banco e timbro solito biglietto, e più vedo che mi rende più lo tengo stretto. Cerco un segno positivo che mi porti al sole e riuscire a sentirlo come quando fuori piove. Non tengo conto di come consumi i miei denari, perché pure risparmiando non arrivo pari. Spesso investo qualche fish ma so già che spreco, ma è la mia scelta e so benissimo che non si torna indietro. A volte gira come una roulette e non sai quando ferma, ed è il numero in cui preghi che può darti la conferma. Divido il premio sopra il rosso e sul nero, ma il destino e sta pallina si è fermata sullo zero. La vita è un gioco d'azzardo, ogni vittoria che detengo su di essa mi avvicina al traguardo. Se l'onestà non serve a un cazzo, lotto tutti i giorni per avere più spazio, sono fuori dal mazzo. Questa è la realtà che mi circonda, ogni giorno una sfida. Qual è la differenza tra chi lotta e chi non muove un dito? Siamo fuori dal mazzo. Cos'è che mi stimola a procedere, fare sempre meglio, a dare il massimo? Dove mai nasconderò la mia forza? E chissà quando userò il mio asso nella manica. Sono fuori dal mazzo. Sono fuori dal mazzo. Sono fuori dal mazzo. La posta in gioco è alta e mette sotto pressione. Sudo freddo appena esamino ogni mezza intenzione. È tempo di girare queste carte, respiro e mi butto. Adesso dimmi solo se ho sbagliato tutto. Io rischio in base a una percentuale, grazie a questa so per certo quanto posso farmi male. La valutazione è la stessa, potrei fidarmi in pieno ma ci penso, e come faccio io a sapere chi è che bleffa, eh? L'incertezza mi rammarica, c'è troppa confusione dalle situazioni povere alle ricche. Se gioco l'asso nella manica, chi mi garantisce che non mi ritorni indietro in due di picche? Sono i dubbi di un pazzo, emozioni che vorrei che durino ma che cambiano ogni sbalzo. Gioco il jolly per vedere in questa vita quanto alzo. Forse un cazzo, ma sono fuori dal mazzo. Eh sì, gente, niente definitivo e nessuno è protetto. Ognuno ha le proprie carte, ognuno scelga come giocarle. Yo, fuori dal mazzo. Siete tutti giocatori, non avete nessuna opzione alternativa, credete. Non vi resta che puntare e cercare di vincere. Yo, giocate il jolly. Yo, sono fuori dal mazzo, sono fuori dal mazzo, sono fuori dal mazzo.